vanno in chiesa, va il rispetto, eccellenza, il gran giubilo. Apprestate per il Tedeum. Tu resta, non mi muovo. E tu, va, fruga gli angolo, raccogli ogni traccia. Sta bene. Occhio alle porte. Senza dar sospetti, ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di Stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui, misericordia. Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli Attavanti? Eccola! Aperta! Arcangeli! E un bel fracchio qui! Un indizio! Entriamo! Grave sbaglio quel colpo di cannone. Il marinaro spiccato il volo, ma lascia una preda preziosa, un ventaglio. Marchesa Attavanti, il suo stemma. Il suo ritratto. Chi fa quelle pitture? Il cavaliere Cavaradossi. Lui. Lui, davanti di tasca, ora un sospetto, un voltariol. Vuoto. Hai detto, che fu? Si trovo nella cappella, questa pagliera. Lo conosci? Cervo. È il gesto del pittore, ma non di me. Sputa quello che sai. Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittore avrà pranzato nella cappella. Non aveva la chiave né contava a pranzare. E disse gli stesso: oh, io l'avevo già messo. Arriva.